mi ricordo che tu urlavi e non finivi mai. Me ne fuggivo via, lontano, più lontano da te. E uscivo da qui, da solo, fuori è buio ma sembra giorno. Mi allontano di più e vedo solo alberi. Mi avvicino più in città, c'è una luce che si spegne e si fa più no. E nessuno c'è in questa strada deserta ormai. Sotto le stelle a terra c'è più confusione, e all'orizzonte è tutto sbagliato e confuso. Na na na, sotto le stelle a terra c'è più confusione, a terra qui con noi, e all'orizzonte è tutto sbagliato e confuso. Mi ricordo che tu urlavi e non finivi mai, e non potevo sentirti e andavo più lontano da te. Sotto le stelle c'è più confusione, c'è più confusione, e all'orizzonte è ancora troppo scuro. Sotto le stelle a terra c'è più confusione, a terra qui con noi, e all'orizzonte c'è ancora molta strada. Sotto le stelle, sotto qualcosa che nessuno c'è più possa vedere, e all'orizzonte è ancora troppo scuro. Dove siamo tutti noi? Questa notte che va, mentre fa scuro qua giù. Fa scuro qua.